Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un saluto da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Questa sera torniamo a occuparci di elettrodomestici cercando di dare alcune indicazioni non scontate, non ovvie su come usarli al meglio, ma soprattutto cercando di mettere a fuoco alcuni aspetti di fondo di come questi oggetti di uso quotidiano funzionano. L'obiettivo è quello di dotarsi di alcuni criteri generali che potremo poi applicare di volta in volta. Proviamo a fare tutto questo con Gaetano Fasano, esperto di risparmio energetico dell'Enea che abbiamo già conosciuto parlando degli standby. Buonasera Fasano. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque Fasano, io le propongo di scaldarci cominciando dal frigorifero, perché forse non tutti sanno che anche il frigorifero emette calore. Ebbene sì, perché il frigorifero è attrezzato con un impianto a pompa di calore che proprio ha il compito di portare fuori dalla cabina di raffreddamento il calore che viene prodotto dai cibi che immettiamo nella cabina, e quindi portare poi la stessa alla temperatura desiderata. E come effetto secondario si ha che però il frigorifero butta fuori molto più calore di quello che riesce a portare fuori dall'interno, e questo calore deve essere dissipato. E certo, difatti un problema che molti utenti non hanno messo a fuoco è il fatto che dietro al nostro frigorifero, dietro al nostro apparecchio, c'è una serpentina in metallo che molti di noi non hanno molto presente nell'apparecchio, però è un componente molto importante, perché è proprio il componente che dissipa questo calore, e quindi più efficiente questo scambiatore di calore, che ormai si può chiamarlo così, e meglio funziona il nostro frigorifero, e naturalmente consente di avere maggiore efficienza soprattutto per quanto riguarda i consumi e la durata del nostro apparecchio. Quindi il consiglio è di pulirlo. Il consiglio è di pulirlo con un pennellino e un po' di alcol, pulire la serpentina in maniera da portare fuori non soltanto tutto il deposito di polvere che comunque si alloggia in questa serpentina, ma anche quei vapori di unto che scaturisce dalla cottura dei cibi, che poi naturalmente si va a depositare proprio lì dove non dovrebbe, e quindi peggiora l'efficienza del nostro apparecchio. Fa da isolante termico. Ecco, senta, abbiamo detto che quel punto lì del frigorifero lo guardiamo poco. In realtà quello di cui parliamo questa sera ha molto più a che fare con il lato posteriore degli elettrodomestici, direi che con quello anteriore molto più curato. Proviamo però a cambiare elettrodomestico, e mantenendo lo stesso a prospettiva, e parliamo di lavatrici, per esempio. La lavatrice è un altro di quei componenti della nostra casa che consuma parecchia energia, e ci sono degli accorgimenti che potremmo suggerire ai nostri ascoltatori. Infatti, per migliorare il rendimento di questa macchina, di questo apparecchio. Per esempio, uno degli accorgimenti che purtroppo sul nostro mercato nazionale è poco evidente è il fatto di poter disporre di apparecchi col doppio ingresso, cosiddetto doppio ingresso, acqua calda o acqua fredda, in maniera tale che all'apparecchio possa arrivare già un'acqua preriscaldata tramite un sistema con il solare termico, anche tramite il nostro boiler a gas che ci fornisce l'acqua calda sanitaria. La classica caldaia, sì. Oppure con un dispositivo, un piccolo miscelatore elettronico, in grado di poter miscelare acqua fredda e acqua calda e immettere nel nostro apparecchio un'acqua già alla temperatura di esercizio, e quindi evitando che ci sia il consumo notevole che deriva dalla resistenza elettrica che deve preriscaldare quest'acqua prima di poter far funzionare il nostro elettrodomestico. Ecco, questo perché sono pochissimi modelli di lavatrici che hanno sia il tubo dell'acqua calda che il tubo dell'acqua fredda. Invece questo scatolotto che si trova sul mercato può essere connesso ad una lavatrice normale e quindi avere più o meno la stessa funzione della lavatrice con due ingressi. Una cosa che poche persone sanno, e che è il caso forse di dire, è che in generale quando bisogna scaldare qualcosa è molto inefficiente farlo con l'energia elettrica. È molto meglio farlo bruciando gas, per esempio, perché l'energia elettrica è una forma di energia molto più pregiata di quella termica. Certo, l'energia elettrica è cosiddetta l'energia nobile, la regina delle energie, quindi andrebbe utilizzata proprio per quelle funzioni a cui questo vettore è indicato. Produrre calore dall'elettricità, dal punto di vista termodinamico, è un po' una bestialità. Consideriamo che un kilowattora prodotto da una fonte termica pesa 1 come costo in euro, dal punto di vista elettrico pesa 2, quindi c'è un rapporto di circa 1 a 2 come costo tra l'energia elettrica e l'energia termica. Quindi non è solo una bestialità termodinamica, è anche una bestialità economica, tutto sommato. Sì. Per fortuna. Certo. questo, anche perché dobbiamo considerare che il kilowattora prodotto dall'elettricità pesa nel rapporto di circa 1 a 3 rispetto al kilowattora prodotto dal termico, quindi dal punto di vista di sistema paese sarebbe opportuno utilizzare il vettore energetico per la sua migliore applicazione. Va bene, grazie Fasano. Prego, arrivederci. Qualche consiglio lampo prima di salutarci. Con le lavatrici non superate il carico consigliato e utilizzate i decalcificanti perché mantengono alto il rendimento degli scambiatori di calore che appunto ci sono dentro anche nelle lavatrici. Insomma, il concetto è lo stesso del frigorifero. Domani parleremo invece di come sostituire la centrale termica senza cacciare un soldo. La formula magica si chiama contratto servizio energia e tutti gli amministratori pubblici e gli amministratori di condominio dovrebbero conoscerla. Vi lascio con il solito invito a scriverci a Mr. Kilowatt @radio24.it. Buona serata.